6. Este do milhão único. Essa é a pista da Valdachão. Apresento-me um novo CD. Explica um pouco de coisa de quello que penso. De questa gente que spalla, spalla. Ma che alla fine, se mi mettessi un microfono in mano, non saprei proprio se dire. Ma tanto almeno me ne frega proprio un cazzo di quello che penso. Io vado con la mia strada e nessuno mi ferma. Nessun pezzo di merda. Ok, questo è Invincibile.